Capitolo 14. Coppia di opposizione minimale. R, vibrante alveolare semplice, doppia R, vibrante alveolare geminata. Esercizio 1. Ascolta le coppie di parole facendo attenzione alla pronuncia della R e della doppia R. 1. Serata, serrata. 2. Caro, carro. 3. Coro, corro. 4. Faro, farro. 5. Sera, serra. 6. Ero, erro.